ad alta voce. Alba Rohrbacher legge Agostino di Alberto Moravia. Non era così tardi come temeva. Giunto allo stabilimento, Agostino scoprì che la madre non era ancora tornata. La spiaggia si vuotava. Pochi bagnanti indugiavano ancora, radi e isolati nel mare che scintillava forte. La gente, languida e accaldata, se ne andava in fila sotto il sole meridiano, per il sentiero di tavole che portava alla strada. Agostino sedette sotto l'ombrellone e aspettò. Gli pareva che la gita della madre si prolungasse fuori dell'ordinario, e dimenticando che il giovane del pattino era arrivato molto più tardi del solito, e che non era stata la madre a volersene andare sola, bensì lui a scomparire, si diceva che quei due avevano certamente approfittato della sua assenza per fare le cose di cui avevano parlato i ragazzi e il Saro. Non provava a questo pensiero alcun senso di gelosia, bensì un tremito tutto nuovo e strano di complicità, di curiosità e di cupa compiaciuta approvazione. Era giusto che sua madre agisse a quel modo con il giovane, che se ne andasse ogni giorno con lui in pattino e che in quel momento, lontano dagli sguardi indiscreti, tra il cielo e il mare, si abbandonasse tra quelle braccia. Era giusto, e lui ormai era perfettamente in grado di rendersene conto. Tra questi pensieri scrutava il mare, cercandovi due amanti. Finalmente il pattino apparve, non più che un punto chiaro sul mare deserto. Rapidamente si avvicinò. Egli vide sua madre seduta sul banco e il giovane che remava. I remi si alzavano e si abbassavano, e ogni colpo di remi era accompagnato da uno scintillio fulgido dell'acqua smossa. Allora si levò e andò sulla riva. Voleva vedere sbarcare la madre, osservare bene in lei le tracce di quell'intimità a cui aveva per tanto tempo partecipato senza comprenderla, e che ora, alla luce delle rivelazioni del Saro e dei ragazzi, gli sembrava che dovesse apparirgli in una maniera tutta nuova, piena di una evidenza impudica e parlante. Dal pattino, prima ancora che approdasse, la madre gli fece un gran cenno di saluto con la mano. Poi saltò allegramente nell'acqua e in pochi passi fu accanto al figlio. «Hai fame? Ora andiamo subito a mangiare! Arrivederci! Arrivederci! A domani!» soggiunse con una voce melodiosa, voltandosi e salutando il giovane. Ad Agostino parve più contenta del solito. E pur seguendolo attraverso la spiaggia, non poté fare a meno di pensare che c'era stata nei suoi saluti al giovane una gioia ebbra e patetica, come se quel giorno fosse veramente accaduto ciò che la presenza del figlio aveva sino ad allora impedito. Ma qui si fermavano le sue osservazioni e i suoi sospetti. Per il resto, salvo quella gioia goffa e così diversa dalla solita dignità, non gli era possibile capire in alcun modo quel che fosse avvenuto durante la gita e se tra i due già corressero rapporti d'amore. Il viso, il collo, le mani, il corpo, per quanto scrutati con nuova e crudele consapevolezza, non rivelavano i segni dei baci e delle carezze che avevano ricevuto. Agostino più guardava sua madre e più si sentiva deluso. «Siete stati soli? Oggi, senza di me?» provò a dirle mentre si avviavano alla cabina, quasi sperando che ella gli rispondesse «Sì, sì, finalmente abbiamo potuto amarci». Ma la madre parve interpretare questa frase come un'allusione allo schiaffo e alla fuga susseguente. «Non parleremo più di quello che è avvenuto», ella disse fermandosi ad un tratto, stringendolo con le due mani per le spalle e fissandolo in viso con quei suoi occhi ridenti ed eccitati. «N'è vero? Io so che tu mi vuoi bene. Dammi un bacio e non se ne parli più. Agostino si trovò ad un tratto con il viso su quel collo un tempo così dolce per il profumo e il calore di cui era castamente avvolto, ma gli parve di avvertire sotto le labbra un palpito nuovo, seppure debole, come l'ultimo guizzo dell'aspro risentimento che doveva aver suscitato in quella carne la bocca del giovane. Poi la madre salì in fretta la scaletta della cabina e, il viso acceso da non sapeva che vergogna, egli si distese sull'arena. Più tardi, mentre si avviava con lei verso casa, rimescolò a lungo, in fondo all'animo conturbato, i nuovi e ancora oscuri sentimenti. Strano a dirsi, mentre prima, quando era ancora ignaro del bene e del male, i rapporti di sua madre con il giovane gli erano apparsi, seppure in una maniera misteriosa, tutti intrisi di consapevolezza, ora che le rivelazioni del Saro e dei suoi discepoli gli avevano aperto gli occhi e confermato quei primi dolenti sospetti della sensibilità, era pieno di dubbi e di insoddisfatta curiosità. Gli è che prima era stato l'affetto filiale, geloso e ingenuo, a destare il suo animo, mentre ora, in questa nuova e crudele chiarezza, quest'affetto, pur senza venir meno, si trovava in parte sostituito da una curiosità acre e disamorata, a cui quei primi leggeri indizi parevano insufficienti e insipidi. Se prima ogni parola, ogni gesto che gli fossero sembrati stonati, l'avevano offeso senza illuminarlo e quasi aveva desiderato di non accorgersene, ora invece che le teneva gli occhi addosso, quelle goffaggini e quelle stonature che prima l'avevano tanto scandalizzato, gli sembravano poca cosa, e quasi si augurava di sorprenderla in quegli atteggiamenti di scoperta e invereconda naturalezza di cui il Saro e i ragazzi gli avevano poco avanti fornito la nozione. A dire il vero, non gli sarebbe forse venuto così presto il desiderio di spiare e sorvegliare sua madre con il preciso proposito di distruggere l'aura di dignità e di rispetto che l'aveva sin allora avvolta ai suoi occhi, se il caso non l'avesse quello stesso giorno messo con violenza su quella strada. Tornati a casa, madre e figlio pranzarono quasi senza parlarsi. La madre pareva distratta, e Agostino, tutto ai suoi nuovi e per lui incredibili pensieri, contro il solito era taciturno, ma poi, dopo pranzo, venne ad un tratto ad Agostino un desiderio irresistibile di uscire di casa e raggiungere la banda dei ragazzi. Gli avevano detto che si riunivano allo stabilimento Vespucci nelle prime ore del pomeriggio, per decidere le scorribande e le prodezze della giornata. E, passato il primo sentimento di ripugnanza e di timore, quella compagnia brutale e umiliante tornava ad esercitare nel suo animo un'oscura attrattiva. Egli era nella sua stanza, disteso sopra il letto, nella penombra rada e calda delle persiane accostate, e giocava come soleva, supino e con gli occhi rivolti al soffitto, con la peretta di legno della luce elettrica. Di fuori giungevano solo pochi rumori, rotolare di ruote di carrozza solitaria, acciottolio di piatti e di bicchieri nelle sale aperte sulla strada di una pensione che stava di fronte alla casa. Per contrasto con questo silenzio del pomeriggio estivo, i rumori della casa si trovavano come isolati e resi più distinti. Udì così la madre entrare nella stanza accanto e poi camminare con i tacchi sonori sulle mattonelle del pavimento. Ella andava e veniva, apriva e chiudeva cassetti, smuoveva seggiole, toccava oggetti. Ora si corica, egli pensò ad un tratto, riscuotendosi dal torpore che l'aveva pian piano investito, e allora non potrò più avvertirla che voglio andarmene sulla spiaggia. Spaventato, si levò dal letto e uscì dalla stanza. La sua camera dava sopra il ballatoio, di fronte alla scala. La porta della madre era attigua alla sua. Egli si avvicinò, ma trovandola socchiusa, invece di bussare come sempre faceva, forse guidato inconsapevolmente da quel suo nuovo desiderio di sorprendere l'intimità materna, sospinse dolcemente il battente aprendolo a metà. La camera della madre, molto più grande della sua, aveva il letto accanto alla porta. E, proprio di fronte alla porta, un cassettone sormontato da un largo specchio. La prima cosa che vide fu la madre ritta in piedi davanti a questo cassettone. Ella non era nuda, come aveva quasi presentito e sperato affacciandosi, bensì in parte spogliata e in atto di togliersi davanti allo specchio la collana e gli orecchini. Indossava una camiciola di velo che non le giungeva che a mezz'anca. Poi, sotto i due rigonfini uguali e sbilanciati dei lombi, uno più alto e come contratto e l'altro più basso e come disteso e indolente, le gambe eleganti si assottigliavano in un atteggiamento neghittoso dalle cosce lunghe e forti giù per il polpaccio fino all'esiguità del calcagno. Le braccia alzate a staccare la fibbia della collana imprimevano al dorso tutto un movimento visibile entro la trasparenza del velo, per cui il solco che spartiva quella larga carne bruna pareva confondersi e annullarsi in due groppe diverse, l'una in basso sotto le reni, l'altra in alto sotto la nuca. Le ascelle si spalancavano all'aria come due fauci di serpenti, e come lingue nere e sottili ne sporgevano i lunghi peli molli, che parevano avidi di stendersi senza più la costrizione pesante e sudata del braccio. Tutto il corpo, grande e splendido, sembrava, sotto gli occhi trasognati di Agostino, vacillare e palpitare nella penombra della camera, e come, per una lievitazione della nudità, ora slargarsi smisuratamente, riassorbendo nella rotondità fenduta e dilatata dei fianchi, così le gambe come il torso e la testa. Ora, invece, ingigantirsi, affusolandosi e stirandosi verso l'alto, toccando con un'estremità il pavimento e con l'altra il soffitto. Ma nello specchio, in un'ombra misteriosa di pittura annerita, il viso pallido e lontano pareva guardarlo con occhi lusinghieri e la bocca sorridergli tentante. Il primo impulso di Agostino, a tale vista, fu di ritirarsi in fretta. Ma subito questo nuovo pensiero, «è una donna!», lo fermò. Le dita aggrappate alla maniglia, gli occhi spalancati. Egli sentiva tutto il suo antico animo filiale ribellarsi a quella immobilità e tirarlo indietro. Ma quello nuovo, ancora timido eppure già forte, lo costringeva a fissare spietatamente gli occhi riluttanti là dove il giorno prima non avrebbe osato levarli. Così, in questo combattimento tra la ripugnanza e l'attrattiva, tra la sorpresa e il compiacimento, più fermi e più nitidi gli apparvero i particolari del quadro che contemplava. Il gesto delle gambe, l'indolenza della schiena, il profilo delle ascelle. E gli sembrarono in tutto rispondenti a quel suo nuovo sentimento, che non aveva bisogno che di queste conferme per signoreggiare appieno la sua fantasia. Precipitando ad un tratto dal rispetto e dalla riverenza nel sentimento contrario, quasi avrebbe voluto che quelle goffaggini si sviluppassero sotto i suoi occhi in sguaiatagini, quella nudità in procacità, quell'incoscienza in colpevole nudità. I suoi occhi, d'attoniti, si facevano curiosi, pieni di un'attenzione che gli pareva quasi scientifica e che in realtà doveva la sua falsa obiettività alla crudeltà del sentimento che la guidava. Intanto, mentre il sangue gli saliva rombando la testa, si ripeteva «è una donna, nient'altro che una donna». E gli parevano queste parole altrettante sferzate, sprezzanti e ingiuriose su quel dorso e su quelle gambe. La madre, toltasi la collana e posatala sul marmo del cassettone, incominciò, riunendo con gesto grazioso le due mani al lobo dell'orecchio, a svitare uno degli orecchini. In questo gesto teneva la testa inclinata sulla spalla, girandola alquanto verso la stanza. E allora Agostino temette che ella lo vedesse nel grande specchio della psiche situata poco lontano, nel vano della finestra. nel quale, infatti, poteva scorgersi tutto intero, ritto e furtivo, tra i battenti della porta. Levata con sforzo la mano, batté leggermente contro lo stipite, domandando: «Si può?» «Aspetta un momento, caro», disse la madre tranquillamente. Agostino la vide muoversi, scomparire dai suoi occhi. Poi, dopo un leggero tramestio, ella riapparve indossando una lunga vestaglia di seta azzurra. «Mamma», disse Agostino senza levare gli occhi, «io vado sulla spiaggia». «A quest'ora?» disse la madre distrattamente. «Ma fa caldo, non sarebbe meglio che tu dormissi un poco?» Una mano si sporse e gli fece una carezza sulla guancia. Con l'altra mano la madre si ravviava dietro la nuca una ciocca allentata dei suoi lisci capelli neri. Agostino, tornato per l'occorrenza bambino, non disse nulla, restando, come soleva quando qualche sua richiesta non veniva accolta, ostinatamente muto, gli occhi rivolti a terra, il mento inchiodato sul petto. Questo gesto era ben noto alla madre, che l'interpretò nella maniera solita. «Ebbene, se proprio ci tieni», ella soggiunse, «va pure. Ma prima passa in cucina e fatti dare la merenda. Ma non mangiarla subito, mettila in cabina. E soprattutto non fare il bagno prima delle 5. Del resto a quell'ora verrò io e faremo il bagno assieme». Erano le solite raccomandazioni. Agostino non rispose nulla e corse via, a piedi nudi, per i gradini di pietra della scala. Udì dietro di lui la porta della camera chiudersi dolcemente. Discese di corsa la scala, nel vestibolo si infilò i sandali, aprì la porta e uscì nella strada. L'investirono subito la bianca vampa, il silenzioso fervore del solleone. In fondo alla strada, in un'aria tremolante e remota, il mare scintillava immobile. All'estremità opposta la pineta inclinava i rossi tronchi sotto le masse verdi e afose dei rotondi fogliami. Esitò, domandandosi se gli convenisse recarsi al bagno Vespucci lungo il mare o lungo la pineta. Poi scelse il primo partito perché, sebbene di gran lunga più battuta dal sole, quella via non lo esponeva al pericolo di oltrepassare lo stabilimento senza avvedersene. Percorse tutta la strada fin dove confluiva sul lungomare, quindi prese a camminare in fretta, rasente i muri. Non se ne rendeva conto, ma ciò che l'attirava al bagno Vespucci, oltre alla compagnia così nuova dei ragazzi, era proprio quel dileggio brutale su sua madre e i suoi supposti amori. Egli avvertiva che l'affetto di un tempo stava cambiandosi in un sentimento tutto diverso, insieme obiettivo e crudele. E gli pareva che quelle ironie pesanti, per il solo fatto di affrettare questo cambiamento, andassero ricercate e coltivate. Perché poi desiderasse tanto non amare più sua madre, perché odiasse questo suo amore, non avrebbe saputo dirlo. Forse per il risentimento di essere stato tratto in inganno e di averla creduta così diversa da quella che era nella realtà. Forse perché, non avendo potuto amarla senza difficoltà e offesa, preferiva non amarla affatto, e non vedere più in lei che una donna. D'istinto cercava di liberarsi una volta per sempre dell'impaccio, della vergogna del vecchio affetto ignaro e tradito, che gli appariva ormai nient'altro che ingenuità e sciocchezza. Per questo, la stessa crudele attrattiva che poco prima l'aveva fatto sostare con gli occhi fissi sul dorso materno, ora lo spingeva a ricercare la compagnia umiliante e brutale dei ragazzi. Quei discorsi irriverenti non erano forse, come la nudità intravista, distruttori della vecchia condizione filiale che ora tanto gli ripugnava? Medicina molto amara, ne sarebbe morto o sarebbe guarito. Come giunse in vista allo stabilimento Vespucci, rallentò il passo, e sebbene il cuore gli battesse a gran colpi e il respiro quasi gli mancasse, assunse un'aria d'indifferenza. Il Saro sedeva come il solito sotto la tenda. Al suo sbilenco tavolinetto, su cui si vedevano un fiasco di vino, un bicchiere e una scodella con i resti di una zuppa di pesce. Il Saro sedeva come il solito sotto la tenda, al suo sbilenco tavolinetto, su cui si vedevano un fiasco di vino, un bicchiere e una scodella con i resti di una zuppa di pesce. Ma intorno il saro non pareva esserci nessuno. O meglio, come giunse presso la tenda, scoprì, tutto nero sulla bianchezza dell'arena, il negretto Holmes. Il saro non pareva curarsi più che tanto del negro e fumava, assorto, un vecchio e sdrucito cappellaccio di paglia calato sugli occhi. «Non ci sono?» domandò Agostino con una voce di delusione. Il saro levò gli occhi verso di lui, lo considerò un momento, quindi disse: «Sono andati tutti a Rio». Rio era una località deserta del litorale, qualche chilometro più in là, dove, tra sabbie e canneti, sfociava un fiumicello. «Ah», fece Agostino con disappunto, «sono andati a Rio, e a che fare?» Fu il negro a rispondergli. «Sono andati a fare colazione», e accennò un gesto espressivo portando la mano alla bocca. Ma il saro scosse la testa e disse: «Voi altri ragazzi non sarete contenti finché non vi sarete buscata qualche fucilata». Era chiaro che la colazione non era che il pretesto per andare a rubacchiare frutta nei campi. Così almeno parve ad Agostino di capire. «Io non ci sono andato», ribatté il negro, come per farsi valere presso il saro, in tono di adulazione. «Tu non ci sei andato perché non ti hanno voluto», disse il saro con tranquillità. Il negro protestò, dimenandosi nell'arena. «Non ci sono andato per restare con te!» Aveva una voce melata e cantante. Sprezzatamente il saro disse: «Chi ti dà il diritto di darmi del tu, moro? Non siamo mica fratelli, mi pare!» «No, non siamo fratelli», rispose quello senza scomporsi, anzi giubilante, come se avesse trovato un piacere profondo in questa osservazione. «E allora sta al posto tuo», finì il saro. Quindi, rivolto ad Agostino: «Sono andati a rubare frutta e gran turco. Ecco la colazione». «E torneranno?» domandò Agostino ansioso. Il saro non disse nulla. Guardava Agostino e pareva seguire un suo calcolo. «Non torneranno così presto», rispose poi lentamente. «Non prima di sera. Se vogliamo, noi possiamo raggiungerli». «E in che modo?» «Con la barca», disse il saro. «Oh, sì, andiamo in barca!» gridò il negro. Zelante ed eccitato, si levò e venne accanto all'uomo. Ma il saro non lo guardò neppure. «Oh, la barca a vela. In mezz'ora o poco più siamo a Rio, se il vento è buono». «Sì, andiamo», disse Agostino contento. «Ma se sono per i campi, come faremo a trovarli?» «Non aver paura», disse il saro levandosi e dandosi un'assestata alla fascia nera che gli cingeva la pancia. «Si trovano di certo». Quindi si voltò verso il negro che lo spiava, ansioso, e soggiunse: «Tu, moro, aiutami a portare la vela e l'albero». «Subito, subito, saro», ripeté il negro giubilante. E seguì il saro nella baracca. Rimasto solo, Agostino si levò in piedi e si guardò intorno. Si era levato un piccolo maestrale e il mare, tutto increspato, si era fatto di un azzurro quasi violetto. In un polverio di sole e di sabbia, il litorale, tra il mare e la pineta, appariva deserto a perdita d'occhio. Agostino, che non sapeva dove fosse Rio, seguiva con occhio invaghito la linea capricciosa, tutta sporgenze e rientranze, della spiaggia solitaria lungo il mare. Dov'era Rio? Forse laggiù, dove la furia del sole confondeva cielo, mare e sabbia in una sola diffusa caligine. La gita lo attraeva infinitamente e per niente al mondo avrebbe rinunziato a farla. Fu scosso da queste riflessioni dalle voci dei due che uscivano dalla baracca. Il saro portava su un braccio tutto un mucchio di cordami e di vele e stringeva nell'altra mano un fiasco. Dietro di lui veniva il negro, imbracciando come una lancia un lungo albero per metà dipinto di verde. «Allora si va!» disse il Saro senza guardare Agostino e avviandosi lungo la spiaggia. Ad Agostino parve, non sapeva perché, curiosamente precipitoso contro il suo solito. Anche notò che quelle sue ripugnanti narici scoperte parevano più rosse e infiammate del consueto, come se tutte quelle venuzze che vi si ramificavano si fossero ad un tratto inturgidite d'un sangue più abbondante e più acceso. «Si va, si va!» canterellava il negro improvvisando dietro il Saro, con quell'albero sotto il braccio, una specie di danza sopra la sabbia. Ma il Saro era ormai presso le cabine, e allora il negro rallentò il passo aspettando Agostino. Come questi gli fu presso, il negro fece un cenno di intelligenza. Interdetto, Agostino si fermò. «Senti», disse il negro con aria familiare, «io devo parlare con il Saro di certe cose. Per questo fammi il piacere, non venire. Vattene». «Perché?» domandò Agostino stupito. «Se ti ha detto che devo parlare con Saro da solo a solo», disse l'altro con impazienza, battendo il piede a terra. «Io devo andare a Rio», rispose Agostino. «Ci andrai un'altra volta». «No, non posso». Il negro lo guardò. Nei suoi occhi bianchi, nelle sue narici unte e frementi, si leggeva una passione ansiosa che ripugnava Agostino. «Senti, Pisa», disse, «se non vieni, io ti do una cosa che non hai mai visto». Lasciò cadere l'albero e si frugò in tasca. Apparve una fionda fatta con una forcella di pino e due elastici legati insieme. «Non è bella?» disse il negro mostrandogliela. Ma Agostino voleva andare a Rio. E poi la insistenza del negro l'insospettiva. «No, non posso», rispose. «Prendi la fionda», disse l'altro cercandogli la mano e tentando di ficcargli l'oggetto nella palma. «Prendi la fionda e vattene!» «No», ripeté Agostino, «è impossibile!» «Ti do la fionda e queste carte», disse il negro. Si frugò ancora nelle tasche e trasse un piccolo mazzo di carte dal rovescio rosa e dal taglio dorato. «Prendi tutte e due e vattene! Con la fionda potrai ammazzare gli uccelli e le carte sono nuove!» «Ti ho detto di no», disse Agostino. Il negro lo guardò, turbato e supplichevole. Grosse gocce di sudore gli imperlavano la fronte. Il viso gli si contrasse ad un tratto in un'espressione lamentosa. «Ma perché non vuoi?» piagnucolò. «Non voglio», disse Agostino, e tutto a un tratto fuggì verso il bagnino che aveva ormai raggiunto la barca sulla spiaggia. Udì il negro gridare: «Te ne pentirai!» E ansimante raggiunse il Saro.